proverei in questa nostra meditazione a tornare sul Vangelo che abbiamo letto oggi. Questa domenica è caratterizzata, no, come sappiamo bene, è la domenica di Lazzaro, anche sia nel rito romano che in quella ambrosiana. C'è questa coincidenza rara, no? Fra l'altro, un tema del ritiro di oggi è la virtù della prudenza, ma io pensavo di non soffermarmi in modo tematico su questa virtù, per quanto importantissima, bellissima e decisiva, e fra l'altro sappiamo quanto è stata anche trascurata negli ultimi secoli, no? Come hanno messo in evidenza vari teologi, anche da tanto tempo, no? E per molti motivi, no? Il Piper cita per esempio Garrigou Lagrange, no? Per cui nel 36 scriveva questo libretto Piper sulla prudenza, e dice: uno dei teologi più importanti di questo tempo fa notare che è sorpreso di questa dimenticanza, no? Che si è andata creando lungo i secoli, su cui appunto però non mi voglio soffermare, ma semplicemente ci incita a considerare l'importanza di questa virtù che guida tutte le altre, senza la quale nessun'altra virtù è virtù, e forse anche a considerare che una chiave di lettura del Magistero del Papa Francesco in questo tempo è proprio questo ritorno all'importanza della virtù della prudenza, che, se mi è consentito così, nella semplicità di questa meditazione, forse la parola discernimento ci ricorda, no? Il discernimento, l'essere anima di criterio, no? Come giustamente ci veniva ricordato prima con parole di Cammino, no? E a me ha colpito, come fra tante cose, no, della visita del Papa a Milano, come lui fa riferimento all'Evangelii Gaudium, addirittura in un passo del suo discorso ai preti la cita come un documento, se fosse un documento del Magistero di un altro, no? Cioè, questo è Evangelii Gaudium, e non fa riferimento a sé, no? Che come autore di questo scritto, ma come un documento così che ha un suo valore. Pensate a quei quattro principi che semplici e profondi, che possiamo interpretare come elementi, no? Della virtù della prudenza. In particolare la realtà, che è più importante dell'idea, è la conoscenza della realtà, l'essere che fonda il vero e il bene, sono aspetti della virtù della prudenza, e così anche quegli altri punti che possiamo andare a rivedere: il tempo è superiore allo spazio, il tutto è superiore alla parte, e pensate tutto quel riferimento che il Papa fa riguardo alla, e l'unità prevale sul conflitto, riguardo all'evitare, no, che la fede diventi un'ideologia, che sia un pensiero chiuso. E in qualche modo ci rimanda alla virtù della prudenza, la capacità di leggere la realtà, leggerla senz'altro sulla base della fede, ma a partire da un'apertura, no, alla realtà stessa. Visto che capitava oggi questo tema e anche questo Vangelo, pensavo: guardiamo Gesù nella sua prudenza, no? Nessuno può dubitare della prudenza di Gesù, della sua capacità di leggere la realtà e di agire per il bene, no? E nell'episodio del Vangelo di Lazzaro, Gesù ovviamente a partire anche da una conoscenza che è quella del Figlio di Dio, no? Che quindi è superiore a quella di tutti noi, però agisce con una prudenza che sconcerta i presenti, no? Sconcerta anche gli stessi suoi amici, Lazzaro, Maria e Marta, perché lui non arriva, no? E sconcerta i discepoli che non capiscono il suo agire, e sconcerta i giudei che dicono: ma lui, se ha aperto gli occhi al cieco nato, poteva fare qualcosa per Lazzaro. E poi sconcerta anche Marta quando gli dice di togliete la pietra, no? Perché questa prudenza di Gesù va contro la prudenza umana, ovviamente fa riferimento a una potenza soprannaturale a cui Marta crede, allo stesso tempo è combattuta, in quel momento prevale per lei la dimensione così umana del cattivo odore che lei non vuole presentare agli altri, soprattutto da parte di suo fratello, è lì da 4 giorni. Eppure possiamo pensare che anche in questo caso, come Gesù ha fatto bene tutte le cose, anche contro il parere di tutti, contro il parere di tutti. Il suo agire, l'agire di Gesù, nel Vangelo di Giovanni si vede in modo particolare, crea contrasto, no? E crea sconcerto. Eppure è un agire sommamente sapiente, sommamente prudente. E un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo al Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. E le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Qui il verbo greco è phileo, anche se invece dopo, quando il Vangelo dice Gesù amava Marta, sua sorella e Lazzaro, è un altro verbo, il verbo agapao. Forse, in questa prima frase, Signore, colui che tu ami è malato, ecco, l'accento del verbo sarebbe più nella linea il tuo amico, ecco, colui che è tuo amico. In ogni caso, noi possiamo annotare nella nostra orazione che Gesù ha un amico, il Vangelo ne parla, che si chiama Lazzaro, e è palese che è amico suo e che gli vuole bene, che lo sanno le sue sorelle e lo sanno anche i giudei, che poi annotano dopo: guarda quanto lo amavano, quanto gli voleva bene, quando scoppia in pianto. E un amico di Gesù del quale noi, al di là di questo episodio, non sappiamo nulla. Poi Lazzaro non dice una parola, poi lo rivediamo 6 giorni, cioè 6 giorni prima della Pasqua a cena, ma non dice niente. Non dice niente, forse anche perché non dice niente di quello che ha visto in quei 4 giorni, forse per decisione presa anche con Gesù. Non è questo il suo compito, no? Di svelare qualcosa di quello che ha visto al di là della morte. E non dice nulla, forse perché questa amicizia che Gesù ha con lui è un'amicizia normale, è un'amicizia che ha una sua intimità, che non quindi i dialoghi di Gesù con Lazzaro, le cose che si sono dette, la confidenza che hanno avuto, non ha un valore per la rivelazione, cioè non ha un valore di rivelazione, ma il valore di rivelazione ce l'ha il fatto che ci sia questa amicizia. E un'amicizia normale, cioè un'amicizia che non comporta il fatto che Lazzaro lo segua come i 12 o come i 72, cioè rimane nel suo posto, e questo per noi è molto eloquente, no? Molto suggestivo, per noi che comprendiamo nella nostra vocazione cristiana illuminata dallo spirito dell'opera che è una vocazione di normalità, che è una vocazione quindi che valorizza molto l'aspetto umano dell'amicizia, che è un aspetto umano che viene magnificato anche dai pagani, e invece per noi diventa anche veicolo normale della comunicazione della fede. E noi questo lo cerchiamo di vivere personalmente, anche di insegnare a tanti, nel aiutare tanti a riscoprire il valore battesimale della propria chiamata alla santità dell'apostolato in mezzo al mondo. Gesù, di cui noi ammiriamo e imitiamo anche i 30 anni di vita normale a Nazareth, Gesù ha questo amico e quindi questo silenzio tra il contenuto dell'amicizia di Gesù con Lazzaro a me parla un po' come parla quel silenzio di quello che ha fatto Gesù in 30 anni di normalità a Nazareth, di cui il Vangelo non dice nulla. Vi ricordate bene come con luce profonda nostro padre San José Maria aveva colto in quel silenzio un'eloquenza per tutti noi, per tutti i cristiani, perché significa che la vita di Gesù è stata come quella di ciascuno di noi, perlomeno fino a quel momento, fino al battesimo, no? Prima della manifestazione progressiva pubblica della sua natura anche divina, no? Nell'unità della persona. E allora anche noi ci possiamo lasciar sorprendere come i giudei, no? Guardate come lo amava, no? Dal suo pianto o come le sorelle che sanno quanto gli voleva bene. Evidentemente questa amicizia di Gesù con Lazzaro era per coloro che, per Maria e Marta, le sorelle, e poi dopo per i giudei, era qualcosa di evidente, di notevole, no? Mi viene in mente quella annotazione che fa, se non erro, San Marco, quando il giovane ricco, no? Quindi Gesù fissato lo amò, cioè a volte l'amore di Gesù, l'amicizia di Gesù per una persona si manifestava in modo evidente, no? E così è per Lazzaro, e quindi proprio perché gli voleva così bene noi ci sorprendiamo insieme con i discepoli, insieme con Marta e Maria, insieme con i giudei, che Gesù si fermi e non vada da lui. Evidentemente c'è un disegno che lui conosce, superiore a tutte le nostre possibili, appunto, prudenze umane, e che Gesù segue, obbedisce anche alla volontà del Padre, forse nel suo pianto, quando sa di quando come dire, non lo sapeva, ma voglio dire, quando lascia che la sua emotività venga scossa dalla realtà che lo urta attraverso il pianto di Maria. Anche a noi succede tante volte così, no? Cioè, vabbè, sappiamo che una persona cara è defunta e fa parte della vita, poi nel momento in cui ci avviciniamo a questa persona al suo corpo davanti al quale preghiamo, oppure al suo sepolcro, oppure al suo funerale, e notiamo tutte le persone che l'amavano, allora in quel momento possiamo ricordare tanti fatti e che ci portano alla commozione, no? E di fronte appunto Gesù in quel pianto, in quella commozione, si commuove per la morte di Lazzaro, si commuove per il dolore che questo ha causato a Maria e a Marta, e forse anche esprime così altri dolori che lui come uomo ha sofferto. Pensate alla morte di Giuseppe, per esempio, di cui il Vangelo non parla, ma che è molto probabile che sia avvenuta prima della sua vita pubblica. E per questo Giuseppe è il patrono della buona morte, no? Perché si immagina la Chiesa che sia stato assistito da Gesù e da Maria, quindi meglio di così, no? Tutti desiderano una morte così. Però per Gesù non ha operato con lui, con suo padre, no? Il miracolo per farlo ritornare alla vita. Pensate alla morte di Giovanni Battista, cioè persone profondamente legate a lui per legami strettissimi di parentela e anche di legame alla sua missione divina, no? Giuseppe ha ricevuto il compito da Dio di prendere con sé Maria e il bambino, quindi di essere colui che dava il nome a Gesù, colui che... Quindi non solo è il papà, no? Come lo ha chiamato sicuramente lungo tutta la vita, Abba, Padre, no? E questo nome Gesù nel suo aramaico l'ha rivolto a Giuseppe da bambino e in tanti anni, no? Ecco, appunto, è colui che ha avuto il compito da Dio, che è stato scelto da Dio per essere suo padre in tutto ciò che è umano e anche quindi formarlo per poi la missione definitiva, no, della sua vita dal punto di vista umano sicuramente, ma tranne l'aspetto della partecipazione alla sua creazione con il suo seme, che non è entrato in gioco, no? Perché è stato frutto dello Spirito Santo, però in tutto il resto Giuseppe è stato suo padre e Gesù, che ha sicuramente sofferto la sua morte come ogni figlio può soffrire la morte del padre, non ha operato verso di lui con questo potere che pure aveva, ma non era il momento e non era la volontà del Padre, no? E pensate appunto alla morte di Giovanni, che anche ha avuto un compito, Giovanni, il precursore, l'evangelista, ha avuto un compito di essere precursore anche nella morte, no? Rispetto a Gesù, cioè gli ha aperto la strada anche in questo, no? Con un martirio e anche lì Gesù non è andato, no? Non è andato a seppellirlo, cioè ha sofferto, si è ritirato in solitudine per soffrire tra sé e sé, tra sé e il Padre, no? Questa sofferenza umana profonda, e ha rinunciato ad operare quella risurrezione che non era prevista dal disegno divino, no? Invece in questo caso è così, no? Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Quindi nel pianto che fa Gesù noi notiamo tutta la forza dell'amicizia con Lazzaro e forse anche la capacità che Gesù aveva di commuoversi e di piangere per tutte queste vicende umane di dolore. Tant'è vero che noi lo prendiamo ad esempio, Gesù, in tanti casi in cui noi viviamo personalmente il dolore e anche siamo chiamati a consolare il dolore dei fratelli. Allora, questo brano, no? Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, Appena lo vide, si gettò ai suoi piedi, dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: Dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Cioè, com'è umano Gesù anche in questo tentativo di distogliere la propria commozione, insomma, mettendo una domanda pratica, no? Dov'è? No? Andiamo a vederlo. E invece non riesce. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse. Allora noi vediamo in questa meravigliosa prudenza di Gesù la capacità anche di lasciar trasparire tutta la sua umanità, di lasciare che tutti i suoi sentimenti, tutte le sue emozioni esplodano anche potentemente, tanto che poi l'Evangelista Giovanni deve dire: allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro come se avesse avuto un'ulteriore scossa di commozione, no? Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. A me viene in mente come anche nostro padre San José Maria parlava del pianto, no? Della normalità del pianto, anche gli uomini piangono, no? A volte svelava il suo pianto nell'orazione. E recentemente, non so se avete avuto occasione di leggere, un detenuto di San Vittore ha scritto all'Avvenire che era lì di fronte al Papa e in un dialogo con lui il Papa gli ha confidato che, dice, come fa a fare tutto quello che fa, no? Gli chiedeva che, e lui, il Papa gli ha detto: perché piango nell'orazione? Quindi piangendo con Gesù lui trova la forza dal Signore, cioè confida a Gesù la sua sofferenza col pianto. E quel detenuto spiega che tutta la visita del Papa, ma in modo particolare quell'incontro, quella frase, quel dialogo, gli ha cambiato la vita. Dice che erano mesi che non riusciva a dormire e ha ricominciato a dormire, questo carcerato, no? E vediamo come è importante, possiamo vederlo come virtù della prudenza, a lasciar trasparire tutta la nostra umanità, perché è quella che è il veicolo che Dio ha scelto fin dalla decisione dell'incarnazione per portare vicino Dio a noi e a tutti. Questo accade con Gesù e accade sempre anche con noi, no? Noi, ciascuno di noi può raccontare nella propria preghiera al Signore e confidare come anche noi ci sorprendiamo del fatto che la nostra normalità, la nostra umanità, l'espressione anche che spesso si nota attraverso, non solo attraverso i sentimenti, poi si nota attraverso l'azione prudente veramente che porta a guarire, a salvare, ad aiutare, a dar da mangiare agli affamati, da bere agli assetati e così via, no? A visitare i carcerati. La decisione prudente, anche se scandalizza, i prudenti secondo la carne, la decisione prudente. E soprannaturalmente prudente, ma anche umanamente prudente, che è di chi sa leggere la realtà, sa capire che cosa il Signore ci spinge a fare, no? Che cosa lo Spirito Santo ci spinge a fare in ogni caso. E quella prudenza che porta Gesù a dire: adesso mi fermo, adesso andiamo, anche se gli altri dicono: ma come, ti vogliono uccidere? Andiamo e svela: Lazzaro è morto, sono sono contento per voi di non essere stato là affinché voi crediate, ma andiamo da lui, quella prudenza che porta Gesù a trattare in modo diverso le sorelle diverse. Marta in un modo, Maria in un altro. A Marta, con Marta che è la prima, che non so, ecco, e, che è quella che si accorge per prima che Gesù è arrivato, che riesce a contenere la sua commozione e quindi a dire a Gesù tutta la frase, no, che ha pensato con Maria. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto, ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Porta Gesù a dialogare con lei per portarla a fare un atto di fede più grande di quello che ha fatto Pietro pochi capitoli prima, dopo il discorso dell'Eucaristia di Cafarna. Più grande di quello che ha fatto Natanaele quando l'ha visto, no? Più completo, no? Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. La fede ebraica di quel tempo, no? Che era arrivata con gradualità a credere, i sadducei non credevano, gli altri sì, alla risurrezione della carne. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. È una rivelazione più grande, no? Credi questo, è un passo avanti, è la fede in Cristo. Ecco, sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. E Pietro aveva detto: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. Noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Natanaele, quando è stato chiamato da Filippo, gli dice: Rabbì, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il Re di Israele. Marta gli dice: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. È una fede ancora più chiara, più completa, più grande. Cosa che non chiede a Maria. La Maria, anzi, si lascia semplicemente da Maria sconvolgere, si lascia commuovere. Si mette a piangere con lei, come a volte dobbiamo fare anche noi di fronte ai dolori dei nostri personali, dei fratelli, dei parenti, degli amici, dei conoscenti. Fare come Gesù, che piange con loro, e piangere con loro senza cercare di dare particolari spiegazioni, che in ultima analisi non ci sono, o se ci sono vanno ascoltate nell'intimo del rapporto con Dio. E questa è la grande prudenza di Gesù, che poi lo porta a prendere quella decisione, appunto anche lì contro il parere di tutti, e togliete la pietra. E Signore, manda già cattivo odore là da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Questo accade dopo 2 giorni, dopo 3 giorni, Marta dice 4 giorni. Già il profeta Osea diceva Dopo 2 giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo la sua presenza. E i primi cristiani, da Tertulliano in poi, applicano queste parole alla risurrezione di Gesù. Il terzo giorno è il giorno in cui Dio agisce, no? E noi ringraziamo Gesù di questo gesto che oggi di nuovo, diciamo, contempliamo nel Vangelo. Ringraziamo Gesù del fatto di averlo compiuto, diciamo, dialogando con noi, Marta, Maria, i discepoli, i giudei, anche comprendendo e, diciamo, il nostro essere un po' fuori da questa logica divina, comprendendo che ci dobbiamo arrivare poco a poco, e anche noi ci mettiamo in questo cammino per prepararci, per rivivere di nuovo il mistero della morte del Signore, della sua sepoltura, no? E poi della sua risurrezione, no? Quelli che stanno in Terra Santa adesso, è Don Domenico che scrive tweet di tutto quello che fa, dice che dopo aver celebrato sul sepolcro, ecco, la sensazione, la messa, no? La sensazione che ha è che guardando ogni sepolcro viene da pensare alla risurrezione, no? E così anche noi ravviviamo la nostra fede nella risurrezione della carne, grazie alla risurrezione di Cristo, e che questo ci dia speranza e slancio per vivere la nostra prudenza nella vita terrena, senza temore di quello che diranno gli altri, no? Quando abbiamo visto le cose davanti a Dio.